piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Oggi inizio io con una breve premessa, perché il tema di oggi mi è particolarmente vicino per l'esperienza mia personale e familiare, e quindi per trattarlo, chi sta seguendo la trasmissione anche sul canale video su YouTube, come vedrete accanto a me c'è mio figlio autistico Tommy. Spero che stia tranquillo, spero che non parli troppo, che non si faccia sentire, ma se anche sentiste in sottofondo il parlare di Tommy, significa che in questo momento sono prova vivente di quello che è una situazione diversa rispetto alla maggior parte della popolazione, di chi comunque gestisce una persona con disabilità grave, di qualsiasi tipo si tratti. Ecco, qual è la differenza dell'esperienza coronavirus per disabili e persone che gestiscono disabili? Ci sono tantissime richieste che mi sono state fatte, vengono fatte anche ai colleghi delle altre trasmissioni, di richiesta di particolari attenzioni. Devo dire, si è intervenuto molto prima sul diritto dei padroni di cani di poter portare i loro animali a fare una passeggiata. Si è dovuto aspettare dei decreti specifici perché chi ha un figlio magari autistico come il mio possa portarlo a fare una passeggiata, che per lui è un elemento fondamentale per il suo equilibrio quotidiano. Ho provveduto questa mattina a farmi fare un certificato da un neuropsichiatra, Tommy addosso la sua 104, abbiamo tutta una documentazione per cui se lo porto 5 minuti a fare un giro a piedi attorno a casa, se mi fermano posso dire ho un figlio disabile e lo porto a prendere un po' d'aria, perché per lui è fondamentale. Perché faccio questa premessa? Perché mi sono lievemente allarmato rispetto a una deriva del percepire comunque alcune condizioni di diversità nell'umanità. Diciamo che in momenti di maggiore serenità sociale è abbastanza più facile sentirsi tutti dalla parte di chi ha difficoltà, sentirsi portatori di bandiere civili. Quando comincia a entrare in gioco una difficoltà, improvvisamente i decenni di civilizzazione che pensavamo non essere più sovrascrivibili sembrano essere messi in discussione. Vi faccio sentire un estratto di un pezzo che ho letto con attenzione, con abbastanza apprensione, che è una corrispondenza da New York di Elena Molinari, corrispondente del quotidiano L'Avvenire, che è un quotidiano serissimo, non è un quotidiano che scrive senza aver prima fatto le necessarie verifiche. Beh, Elena Molinari racconta quella che potrebbe essere la condizione di persone disabili se l'emergenza coronavirus aumentasse. Perlomeno negli Stati Uniti la situazione è questa. Negli Stati Uniti gli ospedali si preparano a essere invasi da pazienti con difficoltà respiratorie, tra i criteri guida su come scegliere chi attaccare a un respiratore e chi no. Emerge una preoccupante tendenza. In Tennessee, le persone affette da atrofia muscolare spinale verranno escluse dalla terapia intensiva. In Minnesota saranno la cirrosi epatica, le malattie polmonari e gli scompensi cardiaci a togliere ai pazienti affetti da Covid-19 il diritto a un respiratore. Negli stati di Washington, New York, Alabama, Tennessee, Utah, Minnesota, Colorado e Oregon, i medici sono chiamati a valutare il livello di abilità fisica e intellettiva generale prima di intervenire, o meno, per salvare una vita. Fra i circa 36 stati che hanno reso noti i loro criteri, una decina elenca anche considerazioni di tipo intellettivo e altri parlano di condizioni precise che possono portare alla discriminazione nei confronti dei disabili. L'Alabama è il caso più eclatante. Il suo documento sostiene che i disabili psichici sono candidati improbabili per il supporto alla respirazione, ma anche nelle linee guida di Washington si discrimina in base alla capacità cognitiva, o in quelle del Maryland e della Pennsylvania, per disturbo neurologico grave. Ora, qualcuno potrebbe obiettarmi, ma negli Stati Uniti c'è un sistema sanitario diverso, funziona un sistema non di welfare pubblico ma di assicurazione, ma non mi sembra che la discriminazione sia stata fatta in base alla capacità di poter pagare. Se un disabile può anche pagare molto, comunque in quegli stati viene discriminato. E non mi sembra nemmeno giusta l'ipotesi per dire, sai, ma parli di alcuni stati del sud degli Stati Uniti, in cui sa sono stati molto reazionari, in cui c'erano delle leggi molto diverse rispetto alla nostra acquisizione dei diritti civili o del politicamente corretto, in cui ci sono normative molto arcaiche. Beh, non mi sembra che lo Stato di Washington faccia parte di questi stati in cui c'è una concezione molto arcaica dei diritti civili. In teoria mi sembra di aver capito, se mio figlio Tommy, che vedete accanto a me in questo momento, persona sanissima, con un fisico eccezionale, soltanto con una disabilità di tipo psichico, si trovasse nello stato di Washington e avesse bisogno di essere intubato, beh, su di lui si discriminerebbe, si penserebbe, ma magari questo ragazzo forse ha meno diritto di vivere rispetto a un altro che ha un cervello normale al 100%. Ora, parto subito con una rassicurazione di merito. Non è così in Italia, naturalmente, anzi c'è un documento molto preciso che è stato appunto fatto, un documento etico proprio per l'ammissione ai trattamenti intensivi per la loro sospensione in condizioni eccezionali, in quello che si chiama medicina delle catastrofi. Per commentarlo l'ho fatto studiare con attenzione un amico che so che ha strumenti per poterci dare sinteticamente tutte le indicazioni necessarie, che è Beppe Neri. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Neurologo, psichiatra, past president della Società Neurologi Ospedalieri. Data l'emergenza, ti ho dato l'incombenza questa mattina di studiare questo documento. Che documento è e che tipo di deduzione traiamo anche alla luce di quello che ci ha raccontato la corrispondente di Avvenire? È un documento prodotto dalla Società Italiana dei Anestesisti e Rianimatori, la SIARTI, ed è un documento che ha un nome preciso che spiega il suo significato. Sono delle raccomandazioni di etica clinica per la ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione in condizioni eccezionali di squilibrio fra necessità, e in questo caso parliamo di necessità di trattamento intensivo, di assistenza respiratoria, di intubazione, e risorse disponibili. In questo caso parliamo di ventilatori e posti letto nelle rianimazioni. I colleghi si sono dati dei criteri espliciti, condivisi, e li hanno resi pubblici già 10 giorni fa. Ecco, quali sono i tipi, diciamo, di limitazione? Siccome si tratta che alla fine ci sono più richieste che possibilità di applicare le terapie, qual è il criterio di discriminazione necessario per non mettere proprio nel problema di coscienza i medici e gli operatori? Se mi permetti, io farei una precisazione, una premessa. Cioè, noi siamo in una situazione di assoluta eccezionalità. Cioè, noi lavoriamo in un contesto di medicina dei disastri. Per capirci, l'unica cosa simile che abbiamo avuto negli ultimi anni è stata la SARS, che ha colpito tutto il mondo nel 2003-2004, e il rapporto fra la SARS e il Covid è un rapporto completamente alterato, nel senso che noi parliamo di numero di casi e di mortalità che hanno una proporzione che è qualcosa di 60 volte, cioè in tutto il mondo c'erano stati 8.000 casi di SARS. Noi abbiamo oggi, 26 di marzo, 486.000 pazienti nel mondo. C'erano 774 morti di SARS all'epoca. Ad oggi, e la malattia va avanti, noi abbiamo 22.000 morti. Allora, prima, chi ci ascolta deve capire le dimensioni. Siamo in una catastrofe che non ha precedenti. E in tempi di catastrofe si usa la medicina dei disastri, che è la coniugazione tra servizi medici di emergenza e gestione di eventi catastrofici. Allora, io ho lavorato 35 anni in ospedale. Le risorse, soprattutto negli ultimi 15 anni, sono sempre state limitate. Abbiamo sempre dovuto scegliere di utilizzare 3 criteri, sempre, anche non in rianimazione. L'appropriatezza, cioè trattare... Scusa Beppe, ricordo che comunque chi ci ascolta può chiamare all'800240024, abbiamo anche in ascolto, e fra poco interverranno, anche i rappresentanti delle più grandi organizzazioni che si occupano appunto di disabili in Italia. Chi di voi avesse comunque persone disabili in famiglia, avesse dei problemi particolari, sentisse che in questo momento particolare ci sono dei trattamenti diversi. Una signora di Trento, lo leggo su un'agenzia ANSA, si è sentita apostrofare per strada perché portava il figlio disabile autistico a passeggiare, dicendo come se fosse un privilegio per lei avere questa possibilità. Nessuno di noi ha nessuna voglia di andare a spasso, sappiamo tutti dei rischi e pericoli che ci sono, però ci sono delle necessità oggettive di persone che hanno un bisogno oggettivo vitale comunque di avere una finestra di spazio aperto, e questo naturalmente bisogna tenerne conto. Avanti, Beppe Neri. No, Gianluca, volevo precisare una cosa. Quello che dici tu per portare in giro Tommy con queste normative è sacrosanto e va difeso e tutelato per tutti i ragazzi come Tommy in Italia. Però parliamoci chiaro, nei nostri ospedali, come quelli stracolmi, ho parlato stamattina con i miei colleghi di Bergamo, i ragazzi di età inferiore a 20 anni sono 1 a 40 rispetto agli altri. Quindi è statisticamente una cosa che ha una possibilità di verificarsi quanto mai remota. Noi stiamo parlando di gente che ha un'età media di 80 anni e che arriva in ospedale spesso, perché grazie alle cure o nonostante le cure la gente vive più a lungo, con diabete, ipertensione, pregresso ictus, e ci piove addosso il Covid. In quel caso ci troviamo, come si sono trovati i colleghi di Crema, di Lodi, di Parma, di Bergamo, a dover scegliere, perché a un certo punto fra risorse limitati e interventi da erogare ti devi dare dei criteri. E secondo me, correttamente, i colleghi della Società Italiana degli Anestesisti, come è successo in tutto il mondo, senza le cose all'americana da cowboys in camice bianco che hai appena citato, ma con criteri che riguardano una valutazione attenta, quando abbiamo carenza di risorse sanitarie, di un principio. Qual è la maggiore speranza di vita? Parlo di un ottantenne, non si discute di un ragazzo giovane. Qual è il beneficio atteso dal trattare intensivamente? Il ragazzo che è uscito fuori da 38 anni, ha fatto 15 giorni di terapia intensiva, ma adesso è stato restituito alla sua famiglia. Allora, quando noi avessimo, e comunico che è stato fatto uno sforzo immane per moltiplicare i posti letto di terapia intensiva disponibile, quindi questo è soltanto, lo ripeto e lo sottolineo, quando ci fosse non abbastanza posti, cosa che è successo in condizioni eccezionali in 2 o 3 ospedali. Non è, ripeto, non è la regola degli ospedali italiani. In quel caso l'etica e il nostro giuramento di Ippocrate ci dice che dobbiamo dare le cure giuste nel modo giusto ai pazienti che hanno la massima possibilità di trarne un beneficio, non di giorni o di anni di vita qualsiasi, ma di qualità della vita per loro e per i loro familiari. Ecco, molto chiaro, Beppe Neri. Allora, intanto richiedo al pubblico nuovamente di portare il suo contributo, 800240024, e dopo la lucida spiegazione di Beppe Neri presento subito i miei ospiti. Roberto Speziale, buongiorno. Buongiorno. È presidente nazionale dell'ANFAS, è l'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale. Vincenzo Falabella, buongiorno Vincenzo. Buongiorno Gianluca. Presidente della FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Allora, Roberto Speziale, l'esempio americano che ho citato è un esempio ai limiti che però ci fa riflettere. Calato in una situazione nazionale in questo momento, dal tuo osservatorio, che penso che mi dici te il numero di famiglie che fanno riferimento comunque all'ANFAS, quali episodi, quali momenti, quali difficoltà vedi in questo momento in cui un'attenzione istituzionale generale è calato, sembra che abbia qualche difficoltà ulteriore nel presentarsi con la stessa modalità con cui si è sempre presentata? Sì, grazie Gianluca. Fammi dire subito che mai come in questa occasione sono felice di vivere in Italia e non negli Stati Uniti d'America. Anche se dalle cose che abbiamo ascoltato motivi di preoccupazione ne dobbiamo avere. È già accaduto che dei medici hanno deciso di fare eugenetica e selezione della razza con il programma Action T4 nazista che sterminò le persone con disabilità, partendo dal concetto che chi non produce pane non ha diritto di mangiare pane. Sai Roberto, ci pensavo io esattamente 10 minuti fa, dicevo, sembrava una cosa così lontana, irripetibile, ci chiedevamo come mai dei paesi civili che hanno prodotto filosofia, scienza, musica, da un giorno all'altro ostetriche, medici, infermieri, suore hanno cominciato a sterminare i disabili. Ma leggo questo articolo dell'Avvenire, mi ha agghiacciato, che degli stati pongano la disabilità psichica come motivo di discriminazione a, diciamo, salvare la vita a una persona, mi ha veramente fatto pensare che è un attimo ritornare indietro. Il rischio non è più, come dire, potenziale, il rischio è concreto, ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo di fronte. Le persone con disabilità e soprattutto le persone con disabilità psichica vengono considerate persone la cui vita ha meno valore. Quindi io non mi atterrei alla medicina delle catastrofi che è stata pensata, costruita in tempo di guerra, mi atterrei al parere autorevolissimo del Comitato Bioetico della Repubblica di San Marino, che dice che oggi, alla presenza delle convenzioni internazionali e della Convenzione ONU sulle persone con disabilità, è reato discriminare l'accesso alle cure e il diritto alla vita in base alle condizioni di salute o alle caratteristiche di una persona. Quindi io, come dire, direi in modo senza alcun equivoco, no, non è possibile che si decida chi deve vivere, chi deve sopravvivere, chi deve morire o chi deve avere accesso alle cure in base al fatto che abbia una disabilità, una condizione di essere una persona anziana. L'Italia, l'Europa non sono gli stati, paesi in cui questa cultura, ancorché basata su degli eventi oggettivi come abbiamo discusso, possa essere demandata alla valutazione anche autorevole di una figura medica. È un diritto. Sentiamo Vincenzo Falabella, una battuta, umano. Scusami Roberto, prima che della pausa volevo sentire un attimo Vincenzo, poi abbiamo tutto il tempo per continuare e articolare meglio il nostro pensiero. Vincenzo Falabella, rispetto a quello che abbiamo sentito, quello che ha già detto Spaziale, certo mi sembra un po' singolare se la Repubblica di San Marino a emettere una norma etica così importante in Italia non ci abbia pensato nessuno. Innanzitutto grazie Gianluca, permettimi di salutare Tommy, visto che è tuo aiuto in questa trasmissione. Beh, effettivamente le osservazioni che ha fatto l'amico Roberto Speziale, che saluto anche lui per il sostegno che sta dando al movimento delle persone con disabilità insieme all'organizzazione che io rappresento. Sì, è allarmante, tutto questo è allarmante, sembra di vivere in un mondo che non è il nostro, almeno a me non appartiene. Vorrei ricordare che tutte le costituzioni dei paesi pongono l'accento sul diritto alla salute, che sono diritti costituzionali, però quando ci troviamo di fronte a situazioni del genere, ancora una volta c'è una discriminazione incredibile nei confronti delle persone con disabilità. Ma io vorrei, se mi permetti Gianluca, soltanto richiamare l'articolo di Avvenire e soffermarmi anche su alcuni singolari documenti che sono stati prodotti negli Stati Uniti. Sono stati definiti regole d'oro, dimmi questa ironia, perché in tutti quei documenti che riguardano appunto la gestione delle risorse viene chiesto al paziente, nel caso specifico, in caso di scarsità di strumenti salvavita, se vuole avere accesso a questi strumenti oppure lasciare il posto a chi potrebbe avere più probabilità di vita, più probabilità di sopravvivenza, come se fosse un maggior valore per la società, una regola che impone, a mio avviso, una pressione inaudita nei confronti. Ti rendi conto che ricatto morale è? Se uno mi domandasse a me, guarda Gianluca, 65 anni, vuoi proprio essere salvato, c'è tanta gente a meno anni di te, lo chiedesse a te Vincenzo, diceva Vincenzo, guarda, tu stai sulla carrozzina, magari un altro potrebbe essere più utile per la società, ti rendi conto che atrocità, che abominio fare una domanda del genere? In effetti è così, in effetti c'è una pressione, e guarda caso questa pressione viene rivolta alle persone con disabilità, alle cosiddette persone più vulnerabili, a quelle persone che dovrebbe invece uno stato civile come quello che viviamo qui in Italia, ma anche in America, gli stati civili devono avere maggiore attenzione verso le persone che hanno e che vivono una situazione di emergenza. Senti, devo lasciare un attimo la linea alla borsa, Vincenzo, scusa questa interruzione drastica, ma anch'io trasmettendo da casa ho un po' un controllo limitato dei tempi. Lascio la linea alla borsa e riprendiamo tra un istante. Melog. C'è chi è in casa con un familiare disabile, come Elena. Il suo Marco ha 30 anni e una disabilità grave, vivono soli. Abbiamo difficoltà ad aiutare anche gli operatori a sentirsi sicuri se devono venire ad assistere i nostri figli, perché non abbiamo a disposizione quelli che sono appunto mascherine, guanti. L'assistenza domiciliare è calata da 8 ore al giorno a meno della metà. Negli ultimi 10 giorni sono stati completamente soli, troppa paura ad uscire da casa. Elena ha dovuto combattere per avere 10 mascherine, le ha dovute pagare 200 euro. Anche accedere alla farmacia è un problema. La difficoltà nelle farmacie è legata al fatto che le persone con disabilità non hanno un accesso prioritario, ma siamo in lista d'attesa come tutti gli altri. Manca la socialità. Marco ha bisogno di contatto e di uscire più volte al giorno, anche per scaricare la tensione. ...800-24-0024, riprendiamo velocemente il nostro discorso sul coronavirus, visto dal punto di vista chi ha delle persone disabili in gestione, chi è una persona disabile che trova maggiore difficoltà. Abbiamo Alessandro da Rovereto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, io sono solo, fra parentesi, non vedente, o cieco, mi sono abituato a dire cieco. E niente, ho dovuto anch'io adeguarmi a questa situazione. E quello che volevo segnalare io è che fra noi disabili c'è molta vicinanza, ci si aiuta. Cioè, io sono non vedente, ma per esempio in questo momento sto aiutando una persona che ha una disabilità fisica molto forte, cioè l'aiuto nel senso che io ho delle persone che mi aiutano a fare la spesa e gliela lascio anche a lui. Cioè, quindi volevo dire che oltre a tutte le cose negative, ovviamente che, di cui sopra, parlava lei prima, c'è molta sintonia fra di noi disabili. Non so se mi sono spiegato. Sì, no, si è spiegato Alessandro, ma mi mette ancora più tristezza che si debba fare corpo delle persone unite da una difficoltà, quando in realtà la difficoltà dovrebbe essere un carico generale di tutta la società, non soltanto della tribù delle persone che si aiutano l'un l'altro. Il cieco che debba aiutare il disabile fisico, mi rendo conto che è una necessità, è un'urgenza proprio dal fatto che in realtà intorno si crea un maggior senso di spietatezza, perché ognuno dovrebbe avere comunque delle persone vicino, dei vicini di casa, dei familiari che si possono muovere, delle istituzioni che continuano a mantenere quel rapporto di assistenza, visto che, come ha detto giustamente Roberto Speziale, fortunatamente siamo nati in Italia, non negli stati in cui ti guardano il certificato, se non c'è il cervello perfettamente in linea probabilmente sei messo in coda alla lista di chi può essere salvato. Paola da Genova, buongiorno. Eccomi, buongiorno dottor Nicoletti. Buongiorno. L'ascolto. Sì, sono una socia dell'ANFAS, ho una ragazza di 45 anni a casa che frequenta il centro, quindi questa situazione è stata abbastanza pesante per i primi giorni perché ancora non si sapevano bene le regole, però con la mia associazione siamo riusciti a sapere che si poteva fare un certificato firmato dalla ASL, dove si certifica la disabilità della ragazza e che quindi può uscire almeno una mezz'oretta al giorno per prendere un po' d'aria, che per lei è fondamentale. E quindi siamo riusciti a gestire questa situazione. L'unica cosa che ho notato è la ragazza, per esempio, ha proprio il vizio, diciamo tra virgolette, di tutti i giorni andare al supermercato e comprarsi una Pepsi, perché per lei è fondamentale. E entrando al supermercato io avrei dovuto lasciare la ragazza da sola perché non mi facevano entrare insieme. Io ho dovuto chiamare il responsabile, mostrare il documento e senza che nessuno mi desse la priorità, diciamo che mi aspetta, secondo me ho aspettato un attimo, poi mi hanno fatto entrare e così. Però noto purtroppo Paola, io capisco perfettamente, so di cosa si tratta, so benissimo quanto le stereotipie di un ragazzo o di una ragazza con quel tipo di problema in qualche maniera sia difficile arginarle, però non si può nemmeno pretendere comunque che in un piano di emergenza nazionale si tenga conto di tutte le possibili differenze. Con un po' di tranquillità lei è riuscita comunque a ottenere quello che per lei era fondamentale, andare a comprare la Pepsi al supermercato. Ma nelle file dei supermercati il vero problema è delle famiglie che vanno in gruppo, è un po' difficile, ci si arriverà senz'altro, mi rendo conto che comunque alla fine con un po' di difficoltà, ma si è arrivati a ottenere quello che per lei andava ottenuto. Roberto Speziale, ricordo presidente nazionale dell'ANFAS, velocemente, rispetto a quello che ha detto questa ascoltatrice e rispetto a quelle che saranno sicuramente le richieste che vengono fatte voi come associazione, esiste un mezzo giusto di comprensione della situazione generale e di possibilità di risolvere alcuni problemi familiari importanti? Ma guarda Gianluca, questa emergenza sta mettendo a nudo tutte quelle che erano le carenze già precedentemente presenti, tu quante volte le hai segnalate e denunciate tutti quanti. In questo momento non è quello di fare polemiche, di fare mugugni, è quello di usare il buonsenso, l'umanità, anche nel caso segnalato da questa mia associata. Come dire, non possiamo pensare che le norme riescano a chiarire tutto, a definire tutti gli aspetti. Ci vuole un po' di buonsenso, di umanità, capire che la disabilità, soprattutto psichica, non consente alle famiglie di poter gestire da sole queste difficoltà, non consente di poter tenere in casa giorni e giorni le persone, quindi bisogna avere quella tolleranza, quella comprensione e garantire che nessuno rimanga solo e quell'aiuto necessario a domicilio, ma ci vogliono i presidi di sicurezza per garantire la salute degli operatori, delle persone con disabilità e delle famiglie, senza le quali non riusciremo a farcela tutti. Cioè alla fine non è vero che andrà tutto bene, sarà andato tutto bene solo per qualcuno, per le persone con disabilità gravi, per le loro famiglie, per gli anziani sarà che è finita invece male. Questo ecco Roberto, una domanda tecnica, proprio come presidente di un'associazione che si interessa alle persone con disabilità psichica. Gli operatori familiari, le persone che l'educatore dei figli o l'assistente dei figli, che in questo momento, ammesso che sia anche disponibile a venire in famiglia, ci sono mille possibilità e mille precauzioni. È sempre un estraneo che entra in casa per garanzia sua e della famiglia, è un po' difficile fare entrare estranei. In generale, come si affronta questo problema a livello nazionale? Una domanda ti faccio anche per interesse personale. Noi stiamo perdendo una grandissima opportunità. Abbiamo un popolo enorme di operatori, di volontari, il terzo settore che potrebbe essere di sollievo e di aiuto al domicilio, a questa attività, vanno dotati dei presidi, vanno protetti, perché in assenza di protezione, al di là della volontà, del buon cuore, queste persone pensiamo che sono belle, che si occupano da sempre delle persone con disabilità, se non abbiamo gli strumenti per proteggerli diventano potenziali elementi diffusori del contagio, cosa che dobbiamo evitare in qualsiasi modo. Per questo abbiamo lanciato in questi giorni un appello urgente alle autorità per equiparare questi servizi ai servizi sanitari e quindi avere priorità nella fornitura di presidi, ausili e quant'altro. E abbiamo diramato comunque delle linee guida che trovate sul nostro sito a beneficio di tutti, comunque per usare quegli accorgimenti possibili e necessari per evitare che quelle necessarie attività di supporto e di assistenza si trasformino poi invece in problemi ancora più ampi e più complicati. Ecco, io voglio sentire anche Vincenzo Falabella. Vincenzo, un po' per la tua vita quotidiana e un po' per le persone che rappresenti e che ascolti, quanto e in che maniera, in che difficoltà e in quali circostanze rappresentano ulteriore barriera architettonica al coronavirus, da considerare comunque? Vincenzo? È caduto Falabella, adesso lo riprendiamo. Allora sentiamo Mario da Novara. Quando riprendiamo Falabella, poi lo sentiamo, magari nella terza parte. Mario da Novara, buongiorno. Buongiorno. Io vedo sostanzialmente in questo periodo due problemi. Uno, troppa retorica nella descrizione, nell'interpretazione e nella valutazione dei problemi. Troppa retorica da parte di tutti. Secondo, ha trovato retorica a quello che abbiamo detto noi, Mario? No, tutti, anche voi. E in che senso? No, visto che è un'accusa molto grave di usare retorica, che è qualcosa che rifugge dalle mie abitudini da quando sono nato. Esempio retorico, un esempio Una descrizione retorica. Continua. Sì, la ripetizione continua di concetti che sono molto popolari. I ringraziamenti a tutti, a se stessi, Io non ho ringraziato nessuno finora. Io mi prendo il mio quando serve. Non mi ha ringraziato nessuno. Io ringrazio chi mi aiuta ad andare in onda. Non mi ha fatto nessun ringraziamento. Anzi, a denti stretti ho annunciato anche la giornata delle tre canzoncine generali, che trovavo una cosa che per me aveva poco senso. E l'ho detto. Quindi se la tenga l'accusa per chi vuole, non per me. Io non uso mai la retorica. Proprio è lontana dalla mia genetica. Quindi vado avanti. La seconda. Scusi, ma io mi difendo su quello in cui mi sento di potermi difendere, poi prendo tutte le critiche possibili. È molto bravo a difendersi, però mi lasci parlare. Il secondo problema. Si dice cose interessanti. L'eccessiva medicalizzazione della società, che già negli anni 50, in un libro pubblicato da Ivan Illich, La Nemesi Medica, era descritta. In altre parole, noi adesso vediamo la medicina paziente-centrica. Invece la medicina va vista comunità centrica, e così per esempio hanno fatto i cinesi, e questo è un modo di combattere le pandemie, le epidemie, le pandemie. E in cosa i cinesi hanno fatto che non facciamo noi? A parte che in Cina c'è una dittatura, da noi c'è una democrazia, detto questo. Certo, io lo capisco, non potevamo fare le cose che fanno i cinesi, ma certo. Di vedere il problema, e adesso si comincia a fare, non sul singolo paziente, alla febbre va in ospedale perché lì è più sicuro. No, il paziente possibilmente va seguito a casa. Ma è quello che dicono tutti. Mi scusi, Mario, mica per niente, Mario, ma è lei che non sta attento. Lo stanno dicendo continuamente, ma dai primi giorni, se hai la febbre stai a casa, non andare all'ospedale. È già stato fatto questo. Lei è un medico, mi sembra di capire. Sì. I suoi colleghi lo stanno dicendo continuamente, non mi pare ci sia retorica, mi sembra che nei limiti in cui ci si può muovere sono indicazioni ben precise da questo punto di vista. Comunque, dobbiamo fermare, non è che la voglio interrompere, è due minuti da dare la linea, l'ho fatta parlare, ma non mi pare abbia nulla di importante da dire. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog 800 24 0024, vediamo se abbiamo recuperato Vincenzo Falabella, ricordo presidente della FISH, Federazione Italiana Superamento Handicap. Mi ascolti, Vincenzo? Sì, ci sono, mi sentite? Scusa, mi sono intrattenuto con un anziano medico che mi diceva che uso la retorica, che non viene avvertito. Mi sembra che le informazioni generali sono date in maniera abbastanza chiara. Le informazioni generali sono chiare, ma l'evoluzione anche della cultura medico-scientifica di questo paese è arrivata nei giorni nostri a vedere e a porre la persona al centro anche degli interventi sanitari. Questo è un cambiamento culturale che è derivato dal confronto costante e quotidiano. Non a caso le norme che oggi vengono applicate tenendo ben presente la centralità della persona. Però io vorrei soffermarmi, se mi consenti, Gianluca, su un aspetto fondamentale. Noi stiamo vivendo una situazione di emergenza. Le persone con disabilità vivono un'emergenza dell'emergenza, nel senso che nella loro quotidianità loro vivono già in una situazione di emergenza che viene amplificata ancora di più in questa situazione. Tutti gli interventi che abbiamo cercato di fare come movimento associativo, come federazione, con le nostre organizzazioni, è quella di intervenire in maniera significativa nella costruzione di norme che, vorrei ribadire, non andranno a soddisfare le esigenze e i bisogni singoli, ma vanno a soddisfare i bisogni e le esigenze della collettività. Fammi degli esempi concreti, Vincenzo, andiamo proprio nel concreto, esattamente. Io prima ti avevo domandato quali erano le ulteriori barriere che si aggiungevano a quelle architettoniche in questo esatto momento, vediamo se riusciamo a definirne qualcuna. Il fatto stesso di poter rimanere in casa e non avere sostegni adeguati, questo è un'ulteriore barriera. Per le persone con disabilità, con grave disabilità, che vivono oggi e devono vivere in casa per scongiurare, per eliminare, per contenere il contagio, occorre comunque che si costruiscano degli strumenti e dei piani che possano portare all'interno delle proprie abitazioni un sostegno. Molte persone con disabilità vivono anche sole, prive del sostegno familiare. Quindi e questo occorre... è un pochino anche il problema che sottolineava Speziale. Ecco, quali sono gli strumenti che possono essere messi in atto considerata l'emergenza in questo momento? Guarda Gianluca, si stanno costruendo in ogni singola regione delle task force, con il movimento associativo, con la disponibilità del movimento associativo per arrivare a domicilio delle persone. Però vorrei ricordare, perché prima di me Roberto lo ha evidenziato, quando sono stati attivati e avviati degli interventi restrittivi, quello che è mancato a mio avviso è un'adeguata organizzazione dei servizi domiciliari. Tutto questo ci ha colti impreparati, ma ha colto impreparato l'intero sistema di protezione di questo paese, perché non eravamo pronti ad affrontare un'emergenza del genere, di conseguenza non eravamo pronti a riconvertire, se vogliamo usare questa parola, i servizi, faccio un esempio banalissimo, diurni o i centri diurni in servizi domiciliari. Che in questo momento i diurni sono chiusi per decreto nazionale, naturalmente. È anche comprensibile perché chi può controllare che non si creino dei focolai o di trasmissione alle famiglie, questo non lo può però controllare nessuno. L'alternativa quale non può è così essere? Però comprensibile. Cioè il fatto che spiegami. Non è così comprensibile, perché il fatto che siano stati chiusi i centri diurni è perché il movimento delle persone con disabilità ha fortemente voluto che venissero chiusi, perché noi abbiamo trovato anche ostruzionismo da parte di alcuni ministeri che volevano mantenere aperti i servizi diurni, e avevamo già i primi casi di contagio all'interno di quei centri e di quei servizi. Mi sembra quindi paradossale, perché se chiudi le scuole, chiudi tutti i luoghi di aggregazione, perfetto, ragione di più dovresti chiudere questi posti in cui non ci sono le persone, che è difficile anche imporre dei comportamenti nuovi, particolari, singolari. Ti faccio l'esempio, perfetto, mio figlio ha imparato a mettersi i guanti e la mascherina, a lavarsi le mani, ma altri, perfetto, è molto più difficile spiegarglielo. Molti non lo fanno, quindi diventa difficile anche sottostare a quelle norme emanate dalla comunità scientifica per contenere il livello di contagio. Quindi questo è stato voluto dal movimento associativo. Prima sentivo dire che qualcuno applaudiva o incensava l'atteggiamento di alcuni enti piuttosto che di alcune persone. Noi ci prendiamo il merito di aver attenzionato il tema delle disabilità, di aver portato il tema della disabilità all'interno del dibattito governativo. Il Cura Italia, per evidenziare una norma, il decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020, contiene degli interventi. Quegli interventi sono stati fortemente voluti dal movimento associativo. Oggi chi fa... Perché Vincenzo, dimmelo francamente, spontaneamente ogni parte della politica non è che ci avesse proprio pensato. Non è che ci avesse pensato, ma è anche vero che non c'è per signor sordo di chi non può sentire a volte, e nel senso che mi perdonerete per questa similitudine, per questo accenno che ho fatto, però è anche vero che se non ci fosse stato il movimento associativo a sollecitare, può darsi noi non avremmo ottenuto quello che in minima parte è stato riportato nel decreto legge, che è prossimo alla conversione in legge, e proprio in questi giorni noi abbiamo lavorato assiduamente per costruire degli emendamenti e portare alle forze politiche i nostri emendamenti per migliorare quel testo e per dare risposte certe, non più rinviabili, alle tante persone con disabilità, alle loro famiglie che vivono in quella situazione di emergenza nell'emergenza. Ecco, ma come si costruisce questa rete? Che mi sembra che sia una rete d'emergenza che va a sostituire quello che già c'era prima, con tutti i limiti che potesse avere. Ecco, come si sta costruendo questa rete? Perché molte persone che ci ascoltano, non è detto che per anzianità, per strumenti individuali, abbiano poi dei contatti diretti con le associazioni, stanno a casa e aspettano che succeda qualcosa. Ecco, quali sono le strade sono che state percorrendo? C'è un livello nazionale e un livello territoriale. È logico che noi dobbiamo intervenire in questo momento sul secondo livello, quindi sul livello territoriale, quello di prossimità, quello di territorialità, e di conseguenza con regioni e comuni. Quindi laddove il nostro movimento associativo è fortemente sollecitato nel confronto con l'ente regione piuttosto che con l'ente comune, si riescono a costruire dei percorsi di sostegno e di supporto alle famiglie. Quindi da un lato esiste il governo primario, diciamo così, quello centrale, dall'altro stiamo lavorando, è logico, con difficoltà, con frenesia, e questa frenesia che a volte crea anche problemi, perché torno a ripetere, non eravamo pronti, non avevamo una rete di sostegno adeguato per far fronte ad un'emergenza così imponente e così importante. Ecco, poi mi piacerebbe adesso, lo domando a Spezzale, poi lo domando nuovamente a Falabella, se poteste nei minuti che restano alla fine della trasmissione sintetizzarmi il format possibile, perché io sono alla ricerca sempre di sintesi su atti concreti. Ecco, Roberto Speziale, se in questo momento tu dovessi suggerire, avessi come interlocutore le singole regioni, perché mi sembra, come dice Falabella, bisogna muoversi sulle amministrazioni territoriali, è inutile andare in questo momento a cercare a livello nazionale delle soluzioni. Ecco, cosa chiederesti nell'ordine di priorità per mettere in piedi questo sistema di sostegno emergenziale per le persone che hanno più bisogno di sostegno delle altre? Guarda, prima Speziale, poi sentiamo Falabella. Guarda Gianluca, la rete di sostegno unica possibile è la rete del terzo settore, la rete del volontariato e la rete delle associazioni del nostro movimento, che è pronto, è lì, bisogna soltanto fornirgli i dispositivi di sicurezza individuali per metterlo in condizione per andare nelle famiglie, entrare a casa, poter fare quelle attività di sostegno, di sollievo, di fornitura, di accompagno e quant'altro. Non abbiamo tempo per fare azione di sistema, ci vorrebbero settimane e mesi, mentre le famiglie hanno bisogno di un intervento immediato oggi, in questo momento. Dobbiamo fornire assolutamente tutto il popolo del volontariato, del terzo settore, degli operatori che prima operavano nei centri diurni, per poter andare a casa delle famiglie, delle persone con disabilità e aiutarle a superare questo momento di emergenza. Le regioni... Però mi sembra che il punto di caduta è che per farlo occorrono garanzie di tipo sanitario e di cautele, di supporti, di sussidi, di attrezzatura per farlo. È questa la barriera in questo momento vera. Se la protezione civile non capisce che deve dare priorità a questo tipo di iniziativa, noi abbiamo milioni di famiglie con gravissime persone con disabilità gravissime, anziani, totalmente abbandonate a se stesse. Noi rischiamo di trovare nelle prossime settimane, come dire, intere famiglie che sono state abbandonate a se stesse, come dire, probabilmente decedute all'interno delle proprie abitazioni senza che nessuno se ne sia. Cioè, troveremo morti abbandonati nelle case, come già sta cominciando ad avvenire. Vincenzo Falabella, rispetto a quello che ha detto Speziale, hai altre integrazioni a fare? Mi sembra chiaro, sì, l'appello alla protezione civile. Perfetto, proprio in quella direzione. Ieri ho avuto modo di confrontarmi con Palazzo Chigi e con l'ufficio presso Palazzo Chigi che si occupa dei diritti, sì, delle persone con disabilità. Abbiamo convenuto di mandare una comunicazione a tutte le regioni da parte appunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi un ente importante, un'autorità importante, quindi sia le regioni, sia le protezioni civili territoriali, sia anche alle organizzazioni delle persone con disabilità, per costruire quel percorso che prima diceva Roberto. Abbiamo ufficializzato. Mi sembra la sigla ti sta tagliando. Ti sta tagliando, ma continueremo e riprenderemo questo argomento la prossima settimana, è una promessa.